Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. In un periodo normale forse parleremo solo di maltempo, di alluvioni, della storia terribilmente dolorosa di quelle due sorelle di 3-14 anni uccise da un albero caduto in un campeggio nel nord flagellato. Ma non siamo in un periodo normale. Così si riparte parlando di contagi e chiedendosi sono troppi, parlando di scuole e interrogandosi su come e quando riapriranno, in quali casi verranno richiuse. Settembre inizia domani in questo modo, tra mille dubbi, mentre la cronaca del Covid si incrocia con quella che sta diventando standard di questo periodo dell'anno, i nuovi sbarchi che mettono in crisi Lampedusa. Questo è 24 Mattino, siamo tornati, sono Simone Spezia e possiamo iniziare. Mattino di Simone Spezia. E siamo tornati con una nuova sigla, care ascoltatrici e cari ascoltatori, e con qualche novità anche nella formula. Buongiorno, buongiorno, eccoci, è lunedì 31 agosto. Sono le 6:29 minuti e 10 secondi e vi aspetto, come sempre. E come ci siamo lasciati il 24 di luglio, al 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio, le vostre voci, SMS, messaggi su WhatsApp, su tutti i temi che volete. La squadra, Carmelo Lauricella in regia, eccolo di nuovo. Giorgio De Luca in assistenza in redazione dall'altra parte del vetro. Il resto della squadra, Alessandro Marco Tulli e Gloria Guerrero in redazione, i nostri autori Margherita Ina e Francesco Ciaraffo. Le novità dunque, le novità, cambia qualcosina? Non molto, Il lavoro che abbiamo fatto l'anno scorso continuerà, le variazioni sono queste. Alle 8:15 non ci sarà più la nostra Maria Latella, che ringrazio per l'anno passato insieme e per l'anno di conduzione di 24 Mattino che mi ha preceduto. Maria che resta a far parte della squadra di Radio 24, E arriva alle 8:15 Paolo Mieli, che si sposta dalla rassegna stampa e sarà con me per un punto di giornata alle 8:15, una decina di minuti insieme per commentare i fatti del giorno. E anche là, le vostre voci sono benvenute. A partire dalle 8:30, poi, come sempre, le interviste di giornata. Oggi parleremo lungamente di scuole. Beh, il tema di queste ore, ragazzi, ne parleremo con la ministra alle pari opportunità della famiglia, Elena Bonetti, con la quale tratteremo anche del tema dell'assegno unico, ovviamente, dei temi che più strettamente la riguardano, anche se questo è un tema che la riguarda, ovviamente, lo sappiamo perfettamente. Avremo ospite anche il presidente dell'Abruzzo, Marco Marsilio, che è un po' la capofila delle regioni che vuole rinviare l'apertura a dopo le elezioni amministrative al voto per il referendum. Ragazzi, che stagione che ci aspetta, Che stagione! Dunque, da cosa iniziare? Facendovi sentire qualche voce, sono ancora un po' rade le voci in questo periodo. Iniziamo proprio dalla scuola, no? Va la ministra Azzolina. Stiamo lavorando, come sapete, ormai da settimane, quindi il 14 di settembre la scuola riparte, anzi, se vogliamo possiamo dire che ripartono le tante scuole d'Italia, perché noi abbiamo più di 40.000 plessi scolastici. Il presidente della regione Campania, De Luca, gli dice no, non si può. noi, tanto per attualizzare anche il discorso e il rapporto con voi, saremo chiamati a prendere decisioni anche importanti da qui a una settimana, due settimane. Pensate solo all'apertura dell'anno scolastico, che diavolo si fa? Nelle condizioni attuali non è possibile aprire. Non so quello che saranno in grado di fare nelle prossime due settimane, ma avremo scelte complicate da fare. Antonio Tajani, di Forza Italia. Il governo può decidere di far riaprire le scuole anche dopo il voto del referendum, se questo serve a garantire sicurezza nella scuola e per i trasporti. Matteo Renzi, di Italia Viva. Ripartire con la scuola non è un optional, è un dovere civico, morale, istituzionale, sociale e politico. Se la scuola non riparte, l'Italia è finita. Se la scuola non riparte, la nostra credibilità di tutti i colori politici scende sotto lo zero. Oggi, tra l'altro, si dovrebbe sciogliere l'ultimo nodo con le regioni, uno degli ultimi nodi con le regioni. Alle 16 ci sarà l'incontro con il governo e che cosa, di cosa si discuterà? Si discuterà di trasporti. Cosa chiedono le regioni? Vogliono che, anche sulla spinta dei comuni, che la capienza massima dei mezzi di trasporto pubblici sia portata all'80%. Ora, ragazzi, mi perdonerete, ma l'80% che vuol dire? Cioè, chi la conta, la gente che entra all'interno di un autobus? Chi sarà l'autista dell'autobus? Insomma, un conto è dire la capienza è al 50%, e allora in quel caso, dice più o meno la metà, insomma, se la capienza è 100, anche se ce ne sono 52 tutto sommato, più o meno si controlla. 80% vuol dire che sono gli autobus pieni, in sostanza, diciamocelo, no? Un po' una mascherina, chiamiamola così, quasi una facciata. Cara Agnese Pini, direttrice della Nazione, come stai Agnese? Buongiorno, hai passato, buongiorno. Passato una discreta estate, sì. Ho passato una buona estate, partita più speranzosa come quella di tutti, poi è andata un po' annebbiandosi purtroppo. Ma declinata rapidamente sulle notizie in arrivo dai contagi. Tra l'altro tra poco ne dovremmo riuscire a parlare con Andrea Crisanti, il direttore del Dipartimento di Medicina Molecolare e Virologia all'Università di Padova. Insomma, un uomo che tra l'altro è molto sulla notizia in queste ore, perché il governo avrebbe accettato il suo piano di fare 300.000 tamponi al giorno. 300.000 tamponi al giorno, 300.000 tamponi al giorno, sono tanti. Vedremo se ci si riuscirà. E però a me sembra che la questione sulla quale si addensi tutto, Agnese, è la scuola. Sì, in questo caso la scuola rischia di diventare davvero qualcosa di molto più pesante, anche politicamente e anche per questo governo. Cioè, il governo si gioca davvero la faccia, e magari anche una sua tenuta con questo aspetto, se le cose non dovessero andare come preventivato, come previsto e come sperato. Anche la questione della data, a questo punto, più che un fatto di opportunità, di buon senso, è davvero una questione anche politica. Cioè, rimandare al post voto l'apertura della scuola rischia di trasformarsi in un boomerang, in uno schiaffo nei confronti di questa maggioranza, che è stata messa a dura prova su una tematica. La scuola pubblica dovrebbe unire un paese, no? E invece in questo caso l'ho profondamente diviso anche all'interno della sua stessa maggioranza, e si è trasformato suo malgrado in un vero e proprio ring politico, mostrando tutta una serie di incongruenze e divergenze che purtroppo non si sono ancora ricompattate alla vigilia dell'inizio della scuola. E mettendo in dubbio, mi pare, Agnese, questo sia da un punto di vista politico sia da un punto di vista pratico, di quello che succederà in settembre, ottobre, anche la figura della ministra dell'istruzione Lucia Azzolina, sulla quale sono concentrate molte attenzioni e molto fuoco amico anche dall'interno della maggioranza. Nei giorni scorsi Marcucci del Partito Democratico ha detto: Azzolina rinviata, vedremo a settembre, rimandata e vedremo a settembre. Insomma, segnali che forse qualcosa là all'interno potrebbe cambiare. Secondo te regge? Insomma, gli equilibri di questa maggioranza sono complicatissimi, quindi mi sembra difficile che possa saltare, poi non si sa mai. Allora, da un anno a questa parte, visto che anche la maggioranza compie tra pochi giorni un anno di vita, la maggioranza giallorossa, più o meno ogni due settimane si parlava di cadute, rimpasti, crolli emotivi da un momento all'altro, li ha sempre retti, per cui è difficile fare previsioni certe dato appunto il progresso. Vero è che, come dicevo poco fa, la questione della scuola è diventata così pesante, giustamente anche perché ci si misurerà la tenuta di questo governo e anche del paese, ed è diventata così pesante anche per le scelte sotto lockdown del governo, no? Si è sempre detto la prima è stata sacrificata, è stata la scuola, hanno chiuso prima le scuole, i parchi, delle fabbriche, insomma questa decisione, che è un po' anche quella più semplice, che cos'è la cosa più semplice da fare in un paese, è ovviamente chiudere la scuola prima delle attività produttive, anche inevitabilmente, però è diventata appunto un simbolo. Vale un po' ormai il referendum del 2016 per Renzi, cioè ci si gioca davvero la faccia questo governo. Quindi ecco, sì, se fosse se sarà un fiasco, quindi non si riesce a ripartire o si richiude immediatamente dopo il governo, il ministro Azzolina, su cui si sono anche un po' ingenerosamente concentrate una valanga di critiche, dico ingenerosamente perché è chiaro che è stato il primo parafulmine rispetto alle polemiche della scuola, il ministro dell'istruzione, però ecco, l'affare scuola è un affare che riguarda molto delicatissimo. Io voglio dare un po' l'idea di quello che sta succedendo agli ascoltatori, magari anche con qualche numero, no? A metà agosto si calcolava una mancanza di spazi ancora per 150.000 studenti, e i presidi stimano la carenza di 10.000 aule, soprattutto nel mezzogiorno. C'è il problema dei professori, la carenza dei professori, non si sa esattamente tra l'altro quanti ne manchino e quanti possano effettivamente arrivare già da adesso, perché adesso stanno partendo i corsi di recupero e ci sono delle scuole che non hanno abbastanza presidi, abbastanza professori per i corsi di recupero. Il tema famoso dei banchi monoposto, i banchi a rotelle, che adesso si apprende, tra l'altro, leggo dai giornali di oggi, che avrebbero anche qualche problema, possiamo definirlo dal punto di vista legale, tecnico legale, per cui forse non possono essere nemmeno utilizzati, cioè non sono classificati, non hanno la classificazione per essere utilizzati all'interno delle aule di scuola. Poi i rischi sanitari dei docenti, perché anche loro hanno questo problema, perché insomma molta attenzione si è puntata e molto duramente nei confronti dei professori in queste ore, tirando fuori anche qualche numero un po' casuale, no? E però è vero anche che ci sono molti professori che sono fragili. Pensate per esempio a un docente che abbia attraversato un qualche tipo di malattia, un tumore o anche solo una polmonite normale, cioè non dovuta a Covid-19 nell'anno precedente, che abbia lasciato qualche conseguenza. I docenti più anziani, è chiaro che anche da quel lato c'è un problema, ossia ci sono resistenze sindacali da un lato evidentemente, però ci sono anche problemi di quel tipo dall'altro. Su questo le vostre voci come sempre sono benvenute al 349-238-6666. C'è anche questione, l'altra questione, che è una questione politica, che però si incrocia col Covid, ed è una questione pratica, che è la questione che sta salendo all'attenzione di tutti, ed è una questione, come già vi dicevo prima, che è un po' quella, se vogliamo, tradizionale di agosto e settembre, ed è il fatto che il mare è calmo e ripartono i barconi dei migranti, ripartono i salvataggi da parte delle ONG, ripartono le polemiche e riparte il problema di Lampedusa che si trova con, in questo momento, 370 persone che sono arrivate nelle scorse ore, con già 1500 che si trovano sull'isola. Periodicamente e regolarmente ci troviamo in questa situazione. Guardate, non è un ragionamento che stiamo facendo qua di o accoglienza o non accoglienza, è semplicemente una questione che ogni anno si ripresenta e ogni anno non riusciamo a risolvere. Naturalmente la questione diventa anche politica. Il presidente della regione Sicilia, Musumeci, Certo, sta facendo effetto la decisione del TAR di Palermo di dire che l'ordinanza del Presidente della Regione Siciliana è nulla. La macchina infernale del potere si è messa in moto e produce effetti. Ma la macchina deve sapere che noi siamo rotti a tutte le esperienze e non ci lasciamo assolutamente intimidire. Sembra un bollettino di guerra. È il calvario di migliaia e migliaia di persone, circa 18.000 in questi primi 8 mesi in Sicilia. Ma è mai possibile che tutto questo debba passare per gestione ordinaria? Ma è mai possibile che non ci sia la voglia, lo stimolo, l'impeto ad indignarsi a Roma? E questo è un altro grande tema che diventa un tema politico, Agnese, come lo è da sempre, perché questo governo in fondo è nato per impedire di arrivare a Salvini di arrivare a Palazzo Chigi, in sostanza. Poi sono mille altre motivazioni, tutto quello che vogliamo, il Movimento 5 Stelle che si sentiva divorato, però è nato per quello. Ed è il tema tradizionalmente cavalcato da Matteo Salvini, che però nel corso dell'estate ha perso smalto, sostengono i sondaggi. Detto ciò, chiaramente è una questione molto delicata per il governo, che dovrebbe modificare i famosi decreti di sicurezza, cosa che non ha ancora fatto. Diciamo che la tua analisi è perfetta sulla questione immigrazione di queste settimane. Andrea, intanto Musumeci ci parla della sentenza del TAR, dice l'infernale macchina del potere che si è messa in moto. In realtà in questo caso non è l'infernale macchina del potere, ma è una questione di rapporti istituzionali, cioè sulla questione immigrazione tra Stato e Regioni il pallino è allo Stato, è al governo, non alle regioni, che non possono per motivi di leggi istituzionali arrogarsi delle decisioni in merito come ha fatto lui. Quindi poi questo tipo di ingerenze rischia di ritardare ancora il problema o di spostare l'attenzione sulla squisita polemica politica, propaganda sì, politica, non sul tema vero che c'è. C'è perché gli sbarchi stanno aumentando, sono aumentati, non è un'emergenza ancora numerica perché siamo lontanissimi, ma davvero lontanissimi in termini percentuali dai numeri degli sbarchi nell'anno nero che fu il 2016, ma quest'anno c'è la questione Covid che si va a sommare alla questione sbarchi, quindi c'è un oggettivo problema sanitario che si somma a quello degli arrivi, con gli effetti di confusione, di caos e a volte anche di emergenza che abbiamo visto in alcuni luoghi sensibili, Lampedusa, Porto Empedocle, insomma la cronaca anche qui delle ultime settimane, no, di questa estate, che ha visto numerose situazioni oltre sfuggite di mano e oltre i limiti. Da questo punto di vista è chiaro che il governo è arrivato un po' tardi sulla questione immigrazione più Covid, no? In sì, questa abbinata. È partito tardi, ha cercato di correre ai ripari in maniera forse non organica e non strettamente incisiva, proprio per i ritardi con cui è partito nel muoversi. Io non so se paghi anche, Agnese, il fatto, ed è questione di analisi, non è una valutazione sulla persona, sia chiaro. Non so se paghi anche il fatto di avere un tecnico al Ministero dell'Interno, che all'inizio sembrava una scelta molto azzeccata, ma forse invece una figura più politica, per quanto no, uno prescinde dal giudizio sul lavoro di Luciana Lamorgese, per carità, però forse un politico là avrebbe avuto un impatto più forte, non lo so, è una riflessione che butto là. La Lamorgese si sta muovendo tecnicamente benino, nel senso che ha fatto quello che andava fatto. La nuova ondata migratoria arriva dalla Tunisia, si è subito mossa per riallacciare dei rapporti diplomatici istituzionali che erano necessari per bloccare i flussi, per facilitare i rimpatri. Noi abbiamo anche un accordo privilegiato con la Tunisia per i rimpatri, è l'unico stato in cui funzionano i rimpatri, perché in tutti gli altri casi, l'abbiamo visto anche nell'anno di Salvini, i rimpatri sono stati pochissimi in Italia, poco più di 6.000. Però certo, il problema dell'immigrazione ha bisogno di una visione politica, cioè non si combatte soltanto mettendo in atto delle contromisure tecniche, pratiche, diplomatiche, sì. Ma la visione politica è fondamentale. Il problema è che qua abbiamo due visioni politiche che non sono esattamente coincidenti, quella del Movimento 5 Stelle. Il governo Giallorossa è uscito fuori mettendoci appunto un tecnico, però è un po' una decisione. Sì. Il traffico. Più di un ascoltatore ci scrive, mi scrive, ma le altre categorie oltre ai docenti non sono a rischio? Per esempio Luciano da Milano. E ancora, gli insegnanti categoria a rischio a settembre, le cassiere senza nessun problema da marzo in poi, gli statali devono vergognarsi, scrive un altro ascoltatore. E però fatemi dire questo, che qua non è che si giustifica il fatto di non voler andare in classe, si giustifica un po' la paura, perché le cassiere o i cassieri sono protetti dal plexiglass con la mascherina e via dicendo. Se ti dicono hai 65 anni, hai 60 anni, hai una malattia precedente e devi entrare in una classe con bambini dai 6 ai 10 anni che non hanno l'obbligo della mascherina, che non sai dove sono stati, insomma, capisci che è un po' diverso da un lavoro a contatto col pubblico ma più protetto. E quindi, qua, ripeto, non è che si vuole giustificare l'eccesso di sindacalizzazione in alcuni casi, però in alcuni casi il problema c'è. Qualche voce abbiamo, Covid, insegnanti, allora li mettiamo in cassa integrazione, non gli diamo lo stipendio intero. Grazie, buongiorno. Da noi sono stati montati dei contapersone che permetterebbe all'autista di contare le persone senza fatica. Non so il da noi cosa voglia dire, però sì, si possono mettere anche i contapersone per arrivare all'80%, poi si chiudono le porte, chi è dentro è dentro, chi è fuori è fuori. Io non lo so, questo 80% Agnese, come la vedi? A me lascia un po' perplesso. Prendiamola a ridere. No, esatto. Anche, tra l'altro, appunto, come ricordavi tu, con la capienza al 50% rischia praticamente di non andare più a scuola nessuno, perché mancano gli autobus. Vabbè, per compensare, no, la capienza più scarsa dei singoli mezzi. Anche l'80% questo, cioè, che poi appunto che cos'è l'80%? È un modo forse per aggirare la regola. Sì, alla fine sì. È molto, è bravissima, molto italiana questa cosa. Bene, certo, e finirà inevitabilmente così, perché non ci sono gli autobus necessari per ridurre la capienza degli autobus. Sì, sì. E non siamo un paese in cui si ordinano oggi e arrivano domani i nuovi mezzi, purtroppo, perché sarebbe pure bello se fosse così. E questo implica il fatto che rischia davvero di finire un po' ci aggiusteremo nostro, che poi funziona, ma, sì. Sì, ma con la pandemia in corso. Guarda, la questione mi fa notare Stefano, giustamente, sempre via WhatsApp, il problema è che questi problemi andavano affrontati ad aprile, guarda, non dico nemmeno aprile perché eravamo un po' nel pieno, diciamo all'inizio di maggio dovevamo affrontarli almeno questi problemi, invece di arrivare qua a ridosso anche con questa storia dei test sierologici per gli insegnanti e per tutto, anche per tutto il personale della scuola, anche quello non scolastico, che questi test sierologici che i medici non hanno, tra l'altro i medici di base non hanno, adesso i docenti e il personale non docente rientreranno dalle ferie, quindi sarà un'ondata di test sierologici da fare, con una confusione estrema per cui non sapremo chi rientra, quando rientra e come. L'abbiamo detto già a luglio questa cosa qua, e questa cosa dei test sierologici fatta a settembre avrebbe creato ulteriori problemi rispetto al fatto che già di docenti non se ne trovano. C'è tutta la questione dei contagi che avrei voluto affrontare il professor Crisanti, che mi è sparito, lo recupereremo sicuramente. Intanto la giornata di ieri ha fatto segnare, forse avrete visto, insomma, il fine settimana ha fatto segnare, forse avrete visto qualche immagine, questa manifestazione dei negazionisti. È un elemento abbastanza preoccupante questo, a Berlino. Una voce. Questo era uno dei suoni, no? Gente che manifestava sostenendo che il Covid non esiste, è un complotto internazionale, tutto questo mondo che in parte ha raccolto, è stato erroneamente dipinto come solo un mondo di ultradestra, un mondo di tutti i tipi. Ieri leggevo, e vediamo se riesco a recuperarvelo, no? Alcuni dei personaggi che ruotano intorno a questo mondo di negazionisti. Tra questi c'è uno chef che ieri è stato arrestato, si chiama Attila Hildmann, è lo chef vegano cospirazionista già noto per aver detto di preferire Hitler ad Angela Merkel, questo per dare la misura, però io ci rido sopra. Però è un mondo, Agnese, che un filo di preoccupazione lo crea. Sì, è molto preoccupante, sorridevo anch'io per lo chef Attila che odia Angela Merkel, ma in realtà è un mondo che resta preoccupazione perché è meno settario di come si vorrebbe credere. È giusto quello che dicevi, non è soltanto un mondo di ultradestra, anche se una cospicua rappresentanza arriva da quella zona politica lì, no? Del posizione un po' sull'estrema destra, ma in realtà è un mondo trasversale, è un mondo variegato ed è più numeroso di quanto pensi. Ora, in Germania l'abbiamo visto in queste manifestazioni che erano tutt'altro che sparute, cioè erano ben affollate, erano immagini che hanno fatto giustamente il giro del mondo e hanno fatto una discreta, hanno fatto molta impressione almeno. Sì. Almeno a me è un mondo preoccupante, perché al di là delle punte eclatanti che abbiamo visto in queste ore dei messaggi veicolati da chi ha più voce, no, in questi movimenti, però c'è poi una grossa percentuale di persone che non arriva a quei livelli di disfattismo, negazionismo, mette in dubbio più sottilmente gli effetti della pandemia, la sua pericolosità, la sua effettiva portata, sì. Mischia questioni politiche governative con questioni sanitarie, e questo nel corso dei mesi questo sentimento è cresciuto molto nel corso degli ultimi mesi, e può effettivamente avere degli effetti, magari appunto in scala più larga, più soft, sì. Ma molto più larga, devastanti, perché il contenimento della pandemia in questa nostra fase 2 o 3, insomma, quella in cui siamo, come si diceva fin dagli inizi, il contenimento del virus si basa innanzitutto su comportamenti responsabili di ciascuno di noi. Ovviamente, no, è quello poi al quale poi richiama qualche ascoltatore parlando della capienza degli 80, cioè, ci scrive un altro che è un autista di Modena, ditemi per gli autobus, se ho 79 persone a bordo ne posso caricare solo un'altra, ma in fermata ce ne sono 3. Chi lascio a terra, chi butto dalla torre, ma io poi devo guidare e contare quando arrivo dove devo arrivare, e se ci sono 70 persone dentro l'autobus, c'è il contapersone e alla fermata ce ne sono 11, potete immaginare la violenza che si scatena per prendere l'autobus che arriva. Insomma, è un po' problematica la cosa, infatti si prevede ampiamente un utilizzo ampio delle auto in questa fase di rientro del traffico, la ripresa del traffico privato. Vabbè, chiudiamo, che facciamo Carmelo? Chiudiamo con De Luca, De Luca su Briatore, che la famosa prostatite di Briatore, la prostatite di Briatore dopo tutti il Twigan, insomma, tutto quello che sappiamo, la presunta infezione, eccetera, via, via. Inviamo un augurio affettuoso intanto a Flavio Briatore, che si sta curando, come lui ha detto, per una prostatite ai polmoni. I migliori auguri di pronto ristabilimento e un invito sommesso ad essere prudente. La prostatite ai polmoni. Vabbè, Agnese Pini, grazie. Agnese, direttrice della Nazione, ciao. Il GR 24, ci ritroviamo subito dopo con la rassegna stampa. Poi alle 7.45 ospiteremo il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori. Dal 24 luglio che siete in ferie. Oh mamma, oh, un mese e più di ferie. Wow. Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it.